Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Per qualcuno saranno rimasti impressi questi pianti tenacemente nella propria memoria biologica. Per altri sono una sorpresa, siete neosposini, siete in attesa di un dolce dono della provvidenza. Beh, aspettatevi questo. Aspettatevi dei ragazzi piangenti, dei bimbi lacrimosi, degli urlatori notturni che per diversi anni vi impediranno di dormire. Poco male, dite, dormiamo un'altra volta, duriamo il giorno, siamo giovani, resisteremo. Ma c'è qualcosa che forse non vi hanno detto chi vi ha preceduto in questo dolce accudimento, che in realtà i bambini quando piangono per alcuni anni impediscono ai genitori di ricordarsi d'essere marito e moglie, d'essere compagni. Insomma, i bambini piangono sempre in maniera strategica per impedire che i genitori possano ogni tanto prendersi il giusto relax, l'unico punto positivo del fatto di essere lecitamente sposati o di essere una coppia, di avere comunque una persona accanto pronta a occuparsi amorevolmente, piacevolmente, con fantasia finché dura, diciamo anche delle proprie pulsioni sessuali. Insomma, sembra che i bambini lo facciano apposta di mettersi in mezzo quando papà e mamma vorrebbero fare quelle cose che in realtà i bambini non dovrebbero sapere. Beh, questo finora è stata una supposizione, un'idea, un cattivo pensiero, e tutti ce lo siamo detti mille volte, ma guarda te cosa bisogna fare, cosa bisogna inventarsi, escamotage terribili, uno corre sotto la doccia, l'altro tiene il bambino, poi lo appoggia un attimo, poi ricorre sotto la doccia, poi rientra, oppure ci si chiude nello sgabuzzino, oppure si mette sulle paperelle della Chicco, si mette il DVD, si mette la cassetta, si danno le goccine, si dà la camomilla, si cerca di strapparvi pochi istanti di intimità, tanto per un velocissimo e rapido rapporto che possa far ricordare ai genitori di essere esseri umani con delle pulsioni, non soltanto delle macchine, delle fabbriche di bambini. Boh, no, lui sempre lì, implacabile, impossibile, sembra che abbia una sorta di orologio biologico per rompere le scatole in famiglia proprio in quel momento. Questo abbiamo sempre considerato una pessima supposizione, ma in realtà da oggi è realtà scientifica. Giuseppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giuseppe Neri è un neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Abbiamo letto questa mattina una notizia che ho anche trattato nel mio giornale, la trovate sulla stampa.it, che sembra che degli scienziati di una importantissima università abbiano determinato quello che noi abbiamo sempre considerato un nostro cattivo pensiero. Giuseppe, aiutami a esporre la notizia. Beh, in realtà il collega David Hegg, che non sta in un posticino da poco perché sta ad Harvard e sta in un laboratorio di biologia evolutiva, ha messo a fuoco una cosa che è centrata non tanto sull'aspetto sessuale della vita di coppia, quanto sulla capacità riproduttiva e sulla fertilità. E il centro del discorso è: quando è che la donna che ha appena fatto un figlio torna ad essere fertile, ha di nuovo la predisposizione per poter concepire un altro figlio? Perché se viene un altro fratellino troppo presto, è possibile che l'attenzione che è dedicata al neonato diminuisca. Allora, per essere molto concreti e molto sintetici, il meccanismo soprattutto dell'allattamento al seno diventa fondamentale, perché il riflesso scatenato dalla suzione e quindi dall'attaccamento al capezzolo è potentissimo nell'inibire la ripresa del ciclo. Quindi il meccanismo vero, Gianluca, che io provocatoriamente proporrei, è una competizione per lo stesso capezzolo fra il padre e il figlio, che cioè quello che cerebrali distinti, ma arriva ad avere lo stesso target. Dunque, quello che la psicanalisi ha sempre cercato di spiegarci attraverso ardite metafore, attraverso riscontri nell'universo mitologico dei nostri progenitori, oggi è stato scientificamente provato. Esiste una lotta al coltello fra il bambino e il padre. Il bambino impedirebbe alla madre di essere fertile e massacrerebbe anche le gonadi al padre urlando tutta la notte, perché non vuole che si accoppino, perché non vuole un altro fratellino fra le scatole in quel momento. E quindi, usando alcuni escamotage, alcuni espedienti che la tecnologia genetica gli mette a disposizione, fa sì che ciucciando la madre provoca a tempo indeterminato la cosiddetta amenorrea, cioè la madre non è fertile, e di conseguenza, penso come effetto laterale, come antiviagra psicologico, riesce a inibire anche il padre, facendo sì che per un po' di anni evitino di accoppiarsi. questo, diciamo, che il pregiudizio che abbiamo sempre coltivato in realtà è scientificamente provato. Beh, il discorso è un pochino meno esteso nel tempo, perché non parlai di anni, ma di un tempo significativo che può arrivare a un anno e mezzo, due. Secondo, il discorso interessante è che lo stesso meccanismo della suzione, esercitato sullo stesso target che è il capezzolo, attiva aree corticali differenti nel cervello della donna e evoca risposte diverse. Al bambino paradossalmente interessa che la mamma non diventi fertile, alla mamma e al marito interessano altre attivazioni che sono legate ai circuiti del piacere. Allora, 800 24 00 24, vi abbiamo rivelato quello che è un contesto scientifico al quale potete aggiungere la vostra esperienza personale. Vi siete mai posti questo problema? Avete mai pensato, dici, ma con un figlio accanto e vicino come potremmo ricordarci di essere una coppia, di essere marito e moglie? Quali sistemi avete messo in atto per poter superare questa sorta di barriera psicologica, questo inibitore urlante, questa sorta di meccanismo perfetto che vorrebbe mangiarsi tutta la nostra emotività? È vero che accade questo? È semplicemente una supposizione a cui gli scienziati hanno dato semplicemente un minimo supporto teoretico e scientificamente accertabile? O siete convinti proprio che i bambini non vogliano più che i genitori abbiano altre possibilità di creare dei loro antagonisti? 800 24 00 24. Amico, ma che te sei addormentato? Gli ha dato il latte. Io credo sì il latte. E allora dai il vino, dai il vino. Ma come il vino? Il vino gli fa male. Dai un po' di camomilla, oh, fammi la vino. Io ho dato la camomilla. Fate buona, ma da chi l'ha preso sta ragazzina che strilla tanto? Amico! Io così non la faccio. Io devo lavorare domattina. Devo lavorare domattina. Devo avere il cervello chiaro. Tiziana Catanzani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Questa non è un appendice la trasmissione che mi precede. A me l'aspetto clinico, l'aspetto tecnico, l'aspetto del benessere non interessa nulla. Interessa lo studio dell'escamotage alternativo. Come si organizzano i genitori per ricordarsi di essere ancora esseri umani quando hanno questo essere urlante attaccato come un vampiro al seno della madre? Dico questo in maniera provocatoria perché Tiziana Catanzani ha una missione nella vita. Gira, lo so perché l'ho vista, con una sorta di tetta sintetica che si può esaminare nella sua sezione sagittale dentro la borsetta, perché lei vive per propagandare e diffondere un credo: bisogna allattare più tempo possibile, sempre. Infatti è consulente professionale in allattamento materno, IBCLC, che è tutta una cosa strana che non so bene, spiegami cos'è. È un riconoscimento, è un diploma internazionale che si consegue dopo un esame che viene fatto a livello mondiale in un giorno dell'anno. Cioè, tu com'è la patente di tetta sempre pronta, così è? È un diploma, diciamo, sì, è un diploma che si acquisisce dopo molte, molte ore di pratica con le madri e anche appunto dopo lo studio approfondito di questi argomenti per insomma diverso tempo. Senti, ma la notizia che abbiamo dato clamorosa questa mattina io e Beppe Neri cambia in qualche maniera quella che è, diciamo, la tua missione, la tua esperienza? Ma in realtà, diciamo, no, anzi, rafforza quella che è la mia esperienza, nel senso, è anche la mia missione, diciamo così, che non è quella di far allattare tutti i genitori a lungo, ma piuttosto quella di rendere appunto questa esperienza il più possibile piacevole e il più possibile personalizzata. Ma una volta che abbiamo capito che in realtà è un sordido escamotage del bambino, che per un suo meccanismo indotto, forse non consapevole, c'è nel DNA, vuole che la madre lo allatti perché vuole che la madre non sia disponibile per il padre, togli felicità ai poveri padri in questo punto di vista, fai contento il bambino, ma diciamo è sbilanciato il tuo intervento. Allora, diciamo questo, che è vero che c'è questa sorta di competizione, nel senso che è una competizione, diciamo, più a livello fisiologico che altro, perché attiva, come ha detto sapientemente il dottor Neri, delle aree corticali differenti, ma è vero che questo agevola proprio, anzi incentiva la riproduzione della specie, proprio perché questo continuo anche ritardare e questo dover cercare continuamente escamotage, cercare momenti differenti. Ma perché ci sono delle tecniche alternative, diciamo. Stimola la fantasia, stimola la fantasia. Allora fermali Tiziana. Sì. No, perché questo è il lato oscuro che non ha mai voluto rivelarmi la tua professione. Voi alla, diciamo, maestre di allattamento, suggerite anche l'alternativa, come risolvere il problema quando si allatta molto per avere comunque un momento di intimità. Ecco, arrivano le prime telefonate. Roberto. Sì, buongiorno. Eccomi. Volevo manifestare la nostra esperienza. Noi abbiamo una bambina di 2 anni e mezzo ormai. Sì. La bambina non ha quasi mai pianto. Quindi di notte. Vi siete divertiti come matti? No. Ah, nemmeno qui. Vabbè, quello è un problema vostro. Vabbè, la bambina è stata allattata al seno, però diciamo che dopo il primo mese fisiologico di richiesta dei pasti, la bambina di notte si è fatta tutta la notte di... Quindi avevate la notte tranquilla per champagne, festeggiamenti, sì. De Pierre, tutto potete fare. Sì, diciamo che magari il mio desiderio sarebbe stato quello, però quello della mia compagna non era proprio lo stesso, insomma. Vabbè. Perché non andava? No, comunque rimane un po' di tensione, qualcosa che comunque cambia nella vita, per cui... La donna si sente mamma e quindi non può più essere amante. Non si è così liberi psicologicamente. Ah, beh. Volevo capire... poi non si può disperare se qualcuno cerca alternative, però se le cose stanno... Forse così semplice. Vabbè. Basta cercare in giro. No, volevo una considerazione. Quindi, nel nostro caso dovremmo intuire che in realtà una bambina che non ha mai rotto più di tanto le scatole, che è stata diciamo in qualche modo regolata, la bambina al seno non ha mai mangiato a richiesta, ma... E quindi cosa pensate voi? Che idea vi siete fatti? No, è un'idea che mi faccio io, però... Però condizionato dal fatto che io vorrei avere un secondo figlio, mia moglie no. Quindi lei pensa il bambino sta alla sua parte, sta buono, però dice papà e mamma, fate esatto, pure. Esatto, l'ipotesi vale oppure non è proprio... Guardi, male. Lei resti in ascolto, le do immediatamente le informazioni del traffico, che il professor Beppe Neri, che è un neuropsichiatra, ha già capito qual è il suo problema, le darà subito un illuminato parere, tra un istante. Melog. Cronache meridiane. (800) 24 0024, stiamo riflettendo sulla novità scientifica che ci hanno rivelato gli scienziati dell'Università di Harvard, dicendo che i bambini quando piangono la notte in realtà non vogliono che i genitori si accoppino. E sto cercando di collazionare la scoperta scientifica con le esperienze dirette dei nostri ascoltatori. Daniela, buongiorno. Buongiorno, piacere di sentirla direttamente. Vada al punto, che l'argomento è scottante. È molto scottante soprattutto per me. Allora, io sono passata da 3 rapporti al giorno. Sì, con chi? Con l'idraulico, scusi, ma chi le racconta questo? Con il mio... No. Sì, no, scusi, è disoccupato, ma è disoccupato suo marito? No. E come fa a ritagliare tempo dal suo lavoro per accoppiarsi 3 volte al giorno con la moglie? Le ore della giornata sono 24, se si inizia la mattina e poi c'è la sera. Ah, c'è la prima, la pomeridiana e la serale? La mattina, il tardo pomeriggio, sì. E il tardo pomeriggio normalmente uno è occupato nelle cose di lavoro, non lo so, comunque meglio. Lei aspetta, sì. Palpitante, lui entra, fa il suo dovere e poi riesce? No, veramente entrambi aspettavamo. Ah. Vabbè, quanto è successo questo idillio ipertrombante? Allora, questa cosa è successa prima della nascita di mia figlia. Cioè, per quanto tempo è durata questo alto livello? 6-7 mesi. Per 6-7 mesi è andata così, poi è nato il bambino. Beh, è nato per forza, la natura alla fine certo, si ribella. Certo, e dopodiché sono iniziati i guai, nel senso che la bambina per 1 anno e mezzo non ha mai dormito. E quindi? E quindi io mi sono spostata in una camera per far almeno riposare mio marito, perché io ero in maternità e per poter permettere di lavorare. Quindi di conseguenza già l'intimità non c'era la sera. Certo. La stanchezza e ovvia, però... Scusi, ma la mattina e il pomeriggio rimanevano liberi, no? Però io ero molto stanca. Ah, bello. E quindi la media com'è mutata? Siamo passati da una media altissima a una media una volta ogni 2 mesi. Vabbè, fatta la media nell'anno più o meno siete nella media nazionale. Infatti, però adesso come diceva all'ascoltatore precedente, si rischia che qualcuno vada a cercare qui in giro. Io sono molto in crisi. Quindi lei è ora che va a cercare in giro? No, io ho paura per lui, perché io sono molto dedicata alla bambina. Quindi lei ormai ha appeso al chiodo il perizoma, non gliene importa più. Mi chiedo che forse non è esatta come posso dire, la valutazione fatta dagli scienziati che siano i bambini a decidere ciò, probabilmente molto spesso sono le mamme anche che prendono. Ma lei è, lei è indotta dal succhialatte che ha movimentato e cambiato in maniera tale il suo apparato organico che non c'ha più voglia per colpa del bambino. Giuseppe Neri è neurologo e presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Questi due casi sono casi da manuale, direi. No, io vorrei che sul fatto della bambina che è stata buona subito e poi non ha pianto nonostante l'allattamento rispondesse Tiziana, che ha le competenze che io non ho. Sul secondo caso effettivamente è l'imbricarsi di una situazione in cui alcune condizioni preesistenti hanno trovato un vassoio d'argento pronto in cui puoi cambiare da 3 giorni ad una volta ogni 2 mesi, ma quello andrebbe studiato nell'ambito della relazione di coppia. Secondo me la bambina c'entra poco ed è la surrettizia accidentale. Quindi dici il marito ha già trovato, in sintesi? No, questo... no, bisogna capire qualcosa nella relazione. No. Daniela, non è una trasmissione medico-clinica, non posso darle consigli, chiami no, al... Ma... Mi spiace. Hai perfettamente ragione. Questa è materia di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, chiami loro e diventerà un argomento interessantissimo. Quanto i bambini allentano il ritmo dei rapporti coniugali quando sono 3 al giorno, in effetti è preoccupante, perciò questo accade solito nelle prime ore della passione, nella prima settimana, nei primi 10 giorni, poi alla fine uno dice vabbè, tanto la minestra è sempre la stessa, possiamo anche perdere tempo. Tiziana Catanzani, chiamata in causa da Giuseppe Neri, vediamo un po'. Beh, rispetto appunto a quello che ha detto il radioascoltatore, mi ha colpito il discorso che la bambina non fosse allattata a richiesta, quindi sia stata tra virgolette regolata, come lui stesso diceva. Probabilmente il fatto che lei non si sia più risvegliata di notte è diciamo una conseguenza di questa tra virgolette sempre regolazione, quindi l'allattamento a richiesta in realtà è... Vabbè, diventiamo trasmissione medica, ho capito, sono fatti loro. Voglio entrare nell'aspetto invece più interessante. Tu alle tue, non so se chiamano pazienti, amiche, colleghe, consorelle della tetta beata, non so esattamente, siete una quasi setta, vero? No, non siamo una setta, assolutamente. È un... Insomma, tu hai 5 figli, scusa, ho dimenticato. Ecco, esatto. E come hai fatto? Io volevo dire questo. Essere una iperallattatrice e avere 5 figli, qualcosa non funziona. Allora, l'allattamento è anche un metodo contraccettivo, quindi vedendola diciamo in positivo, perché se no qui viene dipinto sempre come qualcosa che impedisce ai genitori di avere una relazione serena, eccetera. Vedendola gioiosamente, essendo un metodo contraccettivo, ti permette di fare, di divertirti in tanti modi quando è un allattamento esclusivo nei primi 6 mesi, senza avere appunto invece il pensiero poi di avere dei figli troppo presto, gravidanze successive troppo presto. E poi, come dicevo prima, stimola, nel senso che se comunque il bambino si sveglia di notte e se comunque il bambino... È un figlio tuo questo? Si tiene impegnato... Eh? Sento piangere un bambino. È il mio, sì. Ah no, sì. Pensavo fra gli effetti sonori del professor Chiappini e quelli naturali. Ce l'hai attaccato al seno in questo momento? No, sta giocando al parco. Quindi stasera tutta vita. Sera tutta vita, ma non è detto poi uno, non è detto che si debba per forza scegliere la notte o quel particolare momento per avere dei rapporti. Quindi tu consigli di dislocare in orari differenti l'attività coniugale? Sì, anzi, diciamo che in questo anche l'allattamento può essere uno stimolo a cercare soluzioni differenti, essere fantasiosi e a stimolare anche appunto la fantasia sotto questo aspetto. Sentiamo Massimiliana. Tu dicevi 5 figli, è chiaro. E io ho 5 figli. Quindi hai stimolato la fantasia mentre allattavi. Ahia, mi sono divertita, nel senso che alla fine non è niente incompatibile. Ecco. Sentiamo Massimiliana, che ha un problema. Massimiliana. Ha un problema, la mia esperienza. Buongiorno, Nicoletta. No, ma mi dia un po' di pathos almeno, dica un problema. Problema? Dica un po' di pathos. Io sono figlia di un allattamento pulito, si diceva così una volta. Che vuol dire pulito? Pulito nel senso senza ciclo. Mia madre allattava mio fratello. Ah, questa non l'ho mai saputa, perché c'è anche l'allattamento sporco. Ma no, mia madre, definizione, io ho 67 anni, quindi definizione del 1940 e rotti. Quindi, mio fratello è nato il 18 ottobre del 45, sì. Io il 20 novembre del 46. Quindi, nonostante mio fratello fosse allattato, madre è rimasta incinta di me. Io invece... E quindi non era pulito l'allattamento, sei rimasta incinta dal ciclo? Mia madre, sì, non avendo il ciclo mestruale, pensava che fosse un allattamento, esatto, e invece poi era incinta di me. Comunque sia, siccome lui era molto bravo, è sempre stato bravissimo, io invece nata, rompigliona, sono stata allattata per 13 mesi, poi mia madre ci ha messo ben altri 9 anni per avere la terza figlia. Quindi lei immagina che fa sua madre e suo padre... Mi spiace di indagare in maniera così cruda nel suo profondo, però non c'è stato rapporto per 9 anni. No, no, c'è stato, come? Ma erano tempi. Però non, evidentemente non i mesi di allattamento hanno bloccato l'ovulazione materna, credo, sì, per 9 anni, ma in realtà è impossibile. Tiziana Catanzani può bloccare l'ovulazione per 9 anni? No, 9 anni no. Non mi sembra un po' tantino. No, è tanto. Diciamo tanto. Che hanno stati affaccendati in altri pensieri, in altre idee. Diciamo quello che si sa, diciamo, dalle ricerche e dalle evidenze, è che finché si allatta in maniera esclusiva, quindi fino a quando il bambino non prende altro cibo che il latte, nei primi 6 mesi di vita, cioè, si utilizza questo, si viene anche utilizzato come metodo contraccettivo, si chiama proprio metodo da amenorrea lattazionale, seguendo dei criteri. Sì. Dopo, quando comincia, le poppate cominciano a diradarsi, non può essere più considerato, cioè, un metodo. Se uno si vuole andare a fare una bella vacanza in un posto romantico, se le porta attaccato il ragazzino dietro, perché sennò corre rischi. Beppe Neri, dammi però il quadro finale su questa vicenda. No, c'è la sigla, non mi dà nessun quadro finale, volevo solo una riflessione da Beppe Neri sul fatto che tanti sensi di colpa ci hanno instillato i genitori: ho sofferto, ti ho allevato, ho fatto sacrifici. Oggi si aggiunge anche questo: per colpa tua non feci l'amore per oltre 6 mesi.